Ah, conosciamo il compagno Mario di Novara. Come mai sei qua stasera? Certo. Come mai? Sono qua perché ho sentito che una compagnia si buttava in quel di Torino e sono sceso anch'io, anzi sono risalito. Hai sentito parlare di Neuro Green? No, sì, esatto. Ma cosa facciamo? Neuro Green. Dimmi cosa vuol dire, intanto. Allora, no, sono io che da dove arriva? Un altro compagno di Novara. Che cos'è Neuro Green per te? Ma e come ci sei finito qua stasera? No, ma conosco Marco di Novara che comunque ha frequentato e poi è stato uno degli organizzatori qui e ci ha spiegato che bene o male sono le tematiche ambientaliste, quelle di Neuro Green, rispetto a una serie di pratiche che poi hanno in mente. Per il momento questo è un momento, diciamo, un po' da quel capito pubblici, cioè che si fanno conoscere insieme e hanno dei contenuti per le azioni e le pratiche. Allora, Neuro Green ha una vena catastrofista. C'è vita dopo capitalismo, secondo te? Questa è una bella domanda. Ce la facciamo? Mi sa di no, guarda, la lunga no. Neuro Green si va all'alternativa. Crea alternativa. Neuro Green, come mai sei qua? Ma io devo suonare, poi in realtà... Poi in realtà non è stato possibile. Purtroppo è uno scandalo questo, però è vero. No, ma sì, con la massima simpatia. Non suono con la massima. Puoi lasciare andare alle danze. No, sono qui a godermi la serata, vedi. Ok, bene, grazie.